Oggi sono in compagnia del maestro Alberto Martelli, a cui è stata affidata la direzione artistica della rassegna concertistica bolognese Conoscere la musica, che quest'anno giunge alla 28ª edizione. Sì, conoscere la musica, diciamo, come nome è molto più antica perché è di metà degli anni 70. Mario Pellegrini creò per il comune di Bologna questa rassegna per valorizzare i giovani musicisti, e purtroppo Mario Pellegrini morì giovane e successe che io in quell'epoca ero direttore stabile dell'Orchestra Sinfonica provincia di Lecce, quindi ero fuori dalla città, però mi chiamarono alcuni suoi amici e mi dissero: guarda, vorremmo fare un concerto per ricordarlo così. Questo concerto stimolò tutte queste persone e da lì nacque l'associazione nel 1995, Conoscere la musica. E noi esistiamo da quell'epoca lì, dal 95, io sono il direttore artistico da quell'epoca lì e quindi c'è una continuità su questo. E devo dire, abbiamo anche sempre mantenuto queste idee che secondo noi sono state molto importanti di valorizzazione dei giovani, perché pochissimi lo fanno ormai, cioè il giovane è abbandonato a se stesso e quello che gli può capitare. Invece, se avessimo delle associazioni serie che lo seguono, che lo valorizzano, noi vedremo che abbiamo tanti artisti in Italia straordinari, giovani straordinari. E come è stato detto in conferenza, la valorizzazione del giovane non ghettizzato all'interno di un format prettamente per giovani, ma invece mescolato con quelli che sono artisti più esperti. Sì, questa è la nostra formula sempre, cioè noi chiamiamo. Quest'anno sono 27 concerti, non è che sono di queste ce ne saranno, diciamo, 10-12 che sono di giovani. Il resto sono tutti artisti più famosi, più noti, e dobbiamo ringraziare sia il comune che la regione, che lo Stato che ci sovvenzionano, perché l'associazione è un'associazione di volontariato, nessuno di noi guadagna nulla di questo, soltanto i soldi vengono spesi per fare concerti, cioè per pagare i compensi agli artisti. Due parole su quella che è l'implementazione sonora, oggi si direbbe upgrade, parliamo della sala viaggi e dei due pianoforti, lo Steinway del 30 Lì è stata veramente, lì è la vecchia amicizia con Pino Modugno, che è un pianista straordinario, non solo, adesso è anche il direttore del nuovo conservatorio che è nato a Modena, sulle ceneri del liceo musicale, lo Stato ha statizzato, quindi c'è un conservatorio di Modena e Carpi insieme. Sì, con lui ci è venuta questa idea dopo che abbiamo visto questa sala. Bisogna anche ricordare che il primo pianoforte che abbiamo messo lì, che è il tre quarti di coda Steinway & Sons, è un pianoforte storico ed etico, perché il pianoforte è la famiglia Finzi. I Finzi furono portati ad Auschwitz e morirono tutti nel campo di concentramento. Un erede lo cedette al comune nel dopoguerra, ma non era mai stato suonato. Quando l'abbiamo trovato, era uno strumento che non era praticamente utilizzato, stava in una sala di un quartiere abbandonato, ma è uno strumento di un valore incredibile. E non essendo mai stato suonato, nuovo praticamente, non ha mai avuto nessun tipo d'usura. Sì. Quindi l'abbiamo fatto sistemare ed è venuto fuori uno strumento fantastico. Tutti i pianisti sono contentissimi quando suonano questo strumento. Poi si è aggiunto questo Ortiz, che anche questo stava non so in quale mori, in quale deposito, in quale sala comunale, che in tutto il mondo è un pianoforte spagnolo degli anni 30. È un gran coda questo, eh? In tutto il mondo credo siano stati costruiti 100. Quindi è uno dei 100 ed è uno strumento magnifico, perché Canino e Ballista, che li hanno suonati entrambi, li hanno trovati eccellenti, cioè, quindi vuol dire che sono due strumenti di alto valore, insomma, che quasi si può fare concerti. Specifichiamo però per chi ci ascolta che non sarà soltanto una rassegna pianistica, perché anzi valorizzate anche strumenti, come dicevate prima, che normalmente nelle rassegne concertistiche di classica sono un pochino messi da parte, tipo arpa, vero, chitarra. L'arpa, la chitarra. Ad esempio, noi abbiamo appunto sviluppato un accordo con due concorsi fondamentali che sono il Biasini, che è uno dei più importanti al mondo e quindi ha dei giovani di livello incredibile. E poi abbiamo fatto con il concorso Suoni d'Arpa che si fa a Saluzzo, perché Suoni d'Arpa? Perché è il più importante che c'è in Italia, ma soprattutto perché a Saluzzo opera la Salvi, che è la più grande fabbrica del mondo di arpe. E quindi abbiamo sviluppato e lì prendiamo il camerismo, cioè il duo arpa. Abbiamo preso quest'anno le due vincitrici, che sono il primo flauto e la prima arpa della Filarmonica di Zagabria. Però domenica 19 febbraio si parte con la chitarra. È vero. Ad Ozza, lì la sala è piccolina, però insomma il luogo è talmente bello che ci piaceva partire di lì, insomma molto adatto per la chitarra. La chitarra non ha bisogno di grandi spazi e soprattutto non amiamo amplificarla, e quindi lì è perfetto non amplificarla e tutti possono sentire benissimo. Tutti i dettagli sulla programmazione si possono trovare sul sito Conoscere la musica. Personalmente una chicca che vorrei lei nominasse un attimo: l'11 settembre cosa ci sarà? L'opera barocca. Sì. Ecco, il Filarmindo è una fiaba musicale. su un testo di Campeggi, che era un poeta bolognese, e in cui Giacobbi, che era il maestro di cappella di San Petronio, aveva fatto gli intermezzi, cioè ci sono come degli interludi con gli strumenti tra una scena e l'altra. Non era mai stata, è stata ritrovata da non molti anni il manoscritto originale, e della prima esecuzione in tempi moderni, e l'abbiamo proprio fatta lì perché Campeggi era di origine di Dozza, e inizio della settimana fu quella famosissima del muro dipinto, no? Quindi sarà uno degli eventi culturali dell'inizio della settimana del muro dipinto. E infatti voglio dire a chi ascolta che sarà la prima esecuzione in tempi moderni di un'opera composta nel 1605. 105. Tenga conto che in quell'epoca era appena nato il recitar cantando. Infatti, cioè, infatti. E quindi a Bologna uno dei primi esperimenti artistici, diciamo. Giacobbi aveva sentito la Camerata Fiorentina, si era molto incuriosito, ed ecco che allora comincia a collaborare con Campeggi per scrivere queste che sono poi delle fiabe musicali, no? Queste che, perché sono tipo arcadico, insomma, quello è il gioco di questi testi, no? Quindi anche a livello strumentale avrete gli strumenti dell'epoca. Gli strumenti dell'epoca, sì, verrà fatto con gli strumenti antichi. Perfetto, grazie maestro. Ma di niente, grazie a lei.